Capitolo 6. Domani. A. Una mostra. 1. Ascolta il dialogo. Ciao ragazzi, ecco gli inviti. Ho dovuto cercare in ogni angolo della casa. Bene, allora domani possiamo andare a visitare la mostra. Quanti inviti abbiamo? 4. Allora chiamo anche mio fratello. Certo, anche lui è un appassionato di auto d'epoca. A che ora partiremo? Alle 8, così saremo alla mostra verso le 10. Paolo, tuo fratello verrà? Non lo so, di solito tiene il cellulare spento. Ora provo. Pronto? Ciao Gino, sono Paolo. Abbiamo degli inviti per la mostra di auto d'epoca di Milano. Ci andremo domattina alle 8. Vuoi venire con noi? Gino risponde alla telefonata. Sì, viaggeremo in macchina, non in treno. Ma, non lo so. Torneremo la sera. Sì, forse ceneremo fuori. Ma non lo so, non abbiamo programmi. Ah, capisco, no, allora no. Pazienza. Ciao, Gino, ciao. Non verrà? No, resterà qui, perché sua figlia Piera ha compiuto 8 anni. E domani sera, per festeggiare, ceneranno in pizzeria con alcuni amici. Beh, mi dispiace. Se vuole, torneremo prima di cena. No, non importa. Staremo insieme un'altra volta. Mi dispiace. Gino è proprio simpatico. Allora saremo in 3. Ragazzi, scusate, adesso devo andare. Devo ritirare un paio di occhiali da vista e se aspetto ancora troverò il negozio chiuso. Allora ciao. Ma un attimo, quale macchina prenderemo? La mia. È nuova. Ah già. È vero. Bene, allora guideremo anche noi, vero? Vedremo. Se avrai gli occhiali nuovi, forse potrai guidare la mia macchina. Ciao ragazzi, a domani.